di Laura Ingalls, La casa nella prateria. Verso ovest. Tanto tempo fa, quando i nonni e le nonne di oggi erano bambini, bambine e neonati, o forse non erano ancora nati, papà e mamma, Mary, Laura e la piccola Carrie lasciarono la loro casetta nei grandi boschi del Wisconsin. Partirono abbandonando la casa vuota nella radura, in mezzo agli alberi maestosi, e non la videro mai più. Andavano nel paese degli indiani. Papà diceva che c'era troppa gente ormai nei grandi boschi. Spesso Laura sentiva il rumore sordo di un'ascia che non era quella di papà, o l'eco di uno sparo che non veniva dal suo fucile. Il sentiero vicino alla casetta era diventato una strada e quasi ogni giorno Laura e Mary interrompevano i loro giochi per osservare, stupite, un carro che avanzava scricchiolando lungo la strada. Gli animali selvatici non sarebbero certo rimasti in una regione nella quale viveva così tanta gente e neanche papà voleva rimanerci. Lui voleva stare in un posto in cui gli animali selvatici vivessero indisturbati. Amava vedere i piccoli cerbiatti e le loro mamme che lo scrutavano dai boschi ombreggiati e i grandi orsi pigri che mangiavano le bacche dei cespugli selvatici. Nei lunghi pomeriggi invernali parlava a mamma dell'ovest, dove la terra era piatta e non c'erano alberi. Lì l'erba cresceva fitta e alta e gli animali selvatici si muovevano in cerca di cibo come in un pascolo che si estendeva a perdita d'occhio. Laggiù non c'erano coloni, ma solo indiani. Un giorno, sul finire dell'inverno, papà disse a mamma: «Visto che non hai niente in contrario, ho deciso di andare a vedere a ovest. Ho avuto un'offerta per questa casa. E possiamo venderla ora a prezzo ragionevole e sufficiente per poter ricominciare altrove.» «Oh, Charles, dobbiamo andare proprio adesso», disse mamma. «L'inverno era così freddo e la casa così confortevole. Se vogliamo partire quest'anno, dobbiamo farlo adesso», disse papà. «Non potremo più attraversare il Mississippi dopo che il ghiaccio si sarà rotto.» Così papà vendette la piccola casa e anche la mucca e il vitello. Costruì degli archi di legno di noce e li attaccò sopra il carro. Mamma lo aiutò a ricoprirli di tela bianca. Nel buio sbiadito che precede l'alba, mamma svegliò dolcemente Mary e Laura. Al chiarore del fuoco e delle candele le lavò, le pettinò e le vestì con abiti caldi. Sopra la biancheria di flanella rossa, fece indossare loro vestiti di lana e calze lunghe, anch'esse di lana. Mise loro il cappotto, il cappuccio di pelliccia di coniglio e i guanti di lana rossa. Tutto ciò che era in casa fu caricato sul carro, a eccezione dei letti, del tavolo e delle sedie. Non avevano bisogno di prenderli perché papà ne avrebbe costruiti di nuovi. Il terreno era coperto da un sottile strato di neve. Nel buio l'aria era fredda e silenziosa. Gli alberi spogli si stagliavano contro le gelide stelle, ma a est il sole era pallido e attraverso il grigiore del bosco stavano arrivando lanterne, carri e cavalli. Trasportavano il nonno e la nonna, zii e cugini. Mary e Laura strinsero forte le loro bambole di pezza e non dissero una parola. I cugini stavano lì a guardarle. La nonna e le zie le abbracciarono e le baciarono, poi le abbracciarono e le baciarono di nuovo dicendo loro addio. Papà appese il fucile agli archi del carro, sotto la tela, in modo da averlo a portata di mano mentre era seduto alla guida. Poi vi appese sotto l'astuccio delle pallottole e il corno con la polvere da sparo. Sistemò con cura la custodia del violino tra i cuscini, in modo che i sobbalzi del carro non rovinassero lo strumento. Gli zii lo aiutarono ad attaccare i cavalli. Ai cugini fu detto di baciare Mary e Laura e così fecero. Papà prese Mary e Laura e le sistemò sul materasso in fondo al carro, aiutò mamma a salire sul sedile e la nonna le porse la piccola Carrie. Papà saltò su e si sedette vicino a mamma. Jack, il bulldog pezzato, si mise sotto al carro. E così lasciarono la piccola casa di legno. Le persiane erano chiuse e la casa non poté vederli andar via. Se ne stava lì, dentro il recinto di legno, dietro le due grandi querce che d'estate permettevano a Mary e Laura di giocare all'ombra. Guardarono così, per l'ultima volta, la loro casetta nei boschi. Papà promise che andando verso ovest, Laura avrebbe potuto vedere un piccolo pelle rossa. Così Cos'è un piccolo pelle rossa? Chiese lei e lui rispose: È un bambino indiano dalla pelle scura. Percorsero un lungo tratto attraverso i boschi innevati finché giunsero alla città di Pepin. Mary e Laura l'avevano già vista una volta, ma sembrava molto diversa adesso. La porta del negozio e tutte le porte delle case erano chiuse, i tronchi erano coperti di neve e non c'erano bambini che giocavano fuori, c'erano mucchi di legna tagliata e grossi tronchi. Si vedevano solo due o tre uomini con indosso stivali, cappelli di pelliccia e cappotti di tessuto a quadri. Mamma, Laura e Mary mangiarono pane e melassa nel carro. I cavalli mangiarono mais dalla musetta, mentre nel negozio papà scambiava le sue pellicce con altre cose di cui avrebbero avuto bisogno durante il viaggio. Non potevano fermarsi molto in città perché dovevano attraversare il lago quel giorno stesso. L'enorme lago si estendeva piatto e liscio fino al bordo del cielo grigio. I carri che lo attraversavano scomparivano in lontananza. Papà guidò il carro fin sul ghiaccio, seguendo gli altri carri. Gli zoccoli dei cavalli facevano un rumore sordo, le ruote del carro scricchiolavano, alle loro spalle la città diventava sempre più piccola, finché persino il grande negozio divenne solo un puntino. Tutto intorno non c'era nient'altro che vuoto e silenzio. A Laura non piaceva, ma papà guidava il carro, Jack stava lì sotto e lei sapeva che nulla le sarebbe potuto accadere se papà e Jack erano con lei. Alla fine il carro toccò di nuovo terra. Tornarono a vedersi gli alberi. C'era anche una casetta di legno in mezzo agli alberi. Allora Laura si sentì meglio. Nessuno viveva in quel casolare. Era un posto per accamparsi. Una costruzione minuta, curiosa, con un grande camino e letti spartani poggiati contro i muri, ma anche calda, dopo che papà ebbe acceso il fuoco. Quella notte Mary, Laura e la piccola Carrie dormirono con mamma in un letto improvvisato per terra vicino al fuoco, mentre papà dormì fuori nel carro per fare la guardia ai cavalli. Durante la notte uno strano rumore svegliò Laura. Sembrava uno sparo, ma era più acuto e prolungato. Lo sentì ancora e ancora. Mary e Carrie dormivano, ma Laura non riuscì ad addormentarsi finché non sentì nel buio la dolce voce di mamma. Dormi, Laura, disse. È solo il rumore del ghiaccio che si rompe. Il giorno dopo, al risveglio, papà disse: È stata una fortuna aver attraversato ieri, Caroline. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se fossimo passati oggi e il ghiaccio si fosse rotto. Abbiamo attraversato tardi, il ghiaccio si sarebbe anche potuto rompere mentre eravamo nel bel mezzo del lago. Ci ho pensato ieri, Charles, rispose mamma dolcemente. Laura non ci aveva pensato. Ma ora si chiedeva cosa sarebbe successo se il ghiaccio si fosse rotto sotto le ruote del carro e fossero caduti tutti nell'acqua gelida in mezzo a quell'enorme lago. Stai spaventando qualcuno, Charles, disse mamma, e papà strinse forte Laura tra le braccia. Siamo al di là del Mississippi, esclamò abbracciandola con gioia. Che te ne pare, scricciolo? Sei contenta di andare a ovest, dove vivono gli indiani? Laura disse che era contenta e chiese se in quel momento si trovassero già nel paese degli indiani, ma non erano ancora arrivati, si trovavano nel Minnesota. Il viaggio verso il territorio indiano era molto, molto lungo. Quasi ogni giorno i cavalli viaggiavano finché ne avevano le forze. Quasi ogni notte papà e mamma si accampavano in un posto diverso. A volte dovevano rimanere più giorni nello stesso posto perché un ruscello in piena impediva loro di attraversare finché l'acqua non fosse scesa. Guardarono tanti di quei ruscelli che persero il conto. Videro strani boschi e colline e paesaggi ancora più strani, senza alberi. Attraversarono corsi d'acqua su lunghi ponti di legno finché arrivarono a un grande fiume giallo che non aveva ponti. Era il Missouri. Papà condusse il carro su una zattera e sedettero tutti dentro, mentre la zattera salpava e attraversava quelle acque agitate, gialle e fangose. Dopo alcuni giorni giunsero di nuovo ai piedi delle colline. In una valle il carro rimase impantanato nel fango, cominciò a piovere e tra fulmini abbaglianti scoppiò un temporale. Non c'era un posto dove accamparsi e accendere il fuoco. Il carro era umido, freddo e triste, ma dovettero rimanere lì dentro e mangiare cibi freddi. Il giorno dopo papà trovò un posto dove accamparsi sulle pendici di una collina. Aveva smesso di piovere, ma bisognava aspettare una settimana perché il torrente si abbassasse, il fango si seccasse e papà potesse liberare le ruote del carro per proseguire. Un giorno, mentre erano lì ad aspettare, dal bosco spuntò un uomo alto e magro in sella a un pony nero. Lui e papà parlarono per un po', poi andarono insieme nel bosco. Quando tornarono, entrambi cavalcavano un pony nero. Papà aveva scambiato i cavalli marroni, ormai stanchi, con i due pony. Erano cavallini bellissimi e papà spiegò che non si trattava proprio di pony, ma di Mustang. Sono forti come muli e gentili come gattini, aggiunse. Avevano occhi grandi, teneri e dolci, criniere e code lunghe, zampe slanciate, piedi molto più piccoli e veloci di quelli dei cavalli dei grandi boschi. Quando Laura chiese i loro nomi, papà disse che lei e Mary potevano sceglierli. Così Mary ne chiamò uno Pat e Laura chiamò l'altro Patty. Quando il rumore del torrente si calmò e la strada si asciugò un poco, papà liberò le ruote del carro dal fango, ci attaccò Pat e Patty e tutti insieme ripresero il viaggio. Avevano attraversato con il carro coperto i grandi boschi del Wisconsin, il Minnesota, l'Iowa e il Missouri. Per tutto il tempo Jack aveva camminato sotto il carro. Ora dovevano attraversare il Kansas. Era una terra piana che si estendeva a perdita d'occhio, coperta di erba alta che ondeggiava il vento. Giorno dopo giorno viaggiarono attraverso il Kansas e non videro altro che l'erba ondeggiante e il cielo immenso che si piegava sulla terra formando un cerchio perfetto. Il carro si trovava esattamente al centro. Pete e Patty procedevano per tutta la giornata al trotto e al passo e di nuovo al trotto, ma senza mai spostarsi dal centro di quel cerchio. Quando il sole tramontava, il cerchio era sempre intorno a loro e i bordi del cielo si coloravano di rosa. Poi, lentamente, il paesaggio diventava nero. Il vento che soffiava sull'erba produceva un suono malinconico. Il loro piccolo fuoco era sperduto in mezzo a tanta vastità. Ma poi le stelle, grandissime, spuntavano in cielo e splendevano così vicine che Laura aveva l'impressione di poterle toccare. Ogni giorno il paesaggio era sempre lo stesso. Il cerchio non cambiava. Laura e Mary erano stufe, non c'era niente di nuovo da fare né da vedere. Sul retro del carro il letto era rifatto, coperto con cura da un lenzuolo grigio. Laura e Mary ci stavano sedute sopra. Il telo che copriva il carro era arrotolato e legato sui lati e il vento della prateria soffiava all'interno, scompigliando continuamente i capelli di Laura, lisci e castani, e i riccioli biondi di Mary, mentre la luce abbagliante stropicciava loro le palpebre. A volte una grossa lepre saltava sull'erba ondeggiante. Jack non ci faceva caso. Anche il povero Jack era stanco e le zampe gli facevano male per quel lungo viaggio. Il carro procedeva strattonando, mentre il vento faceva sbattere la copertura di tela. Davanti a loro, il sentiero, tracciato dalle ruote che l'avevano percorso in precedenza, procedeva sempre uguale. La schiena di papà era curva, le redini lente tra le sue mani mentre il vento gli accarezzava la lunga barba bruna. Mamma sedeva dritta e silenziosa, le mani in grembo. La piccola Carrie dormiva in un angolino morbido tra i pacchi. Mary sbadigliò e Laura chiese: «Ma non possiamo scendere e correre dietro al carro? Ho le gambe così indolenzite!» «No, Laura», rispose mamma. «Quando ci fermiamo?» insistette Laura. Sembrava passato un'eternità da mezzogiorno, quando avevano pranzato sull'erba all'ombra del carro. Papà rispose: «Non ancora, è troppo presto per accamparci». «Voglio che ci accampiamo adesso, sono stanca», disse Laura. «Laura», fece mamma, e non aggiunse altro, voleva dire che Laura non doveva lamentarsi. Così lei smise di farlo ad alta voce. Ma dentro di sé era ancora arrabbiata, si sedette e continuò a lamentarsi tra sé. Le gambe le dolevano, il vento continuava a scompigliarle i capelli. L'erba ondeggiava, il carro strattonava e non succedeva nient'altro da un sacco di tempo. «Stiamo per arrivare a un ruscello o a un fiume», disse papà. «Bambine, vedete quegli alberi lì davanti?» Laura si alzò, aggrappandosi a uno degli archi che sostenevano il telo di copertura del carro. In lontananza vedeva una macchia scura. «Sono alberi», disse papà. «Si capisce dalla forma delle ombre. In questa regione alberi significa acqua. È lì che ci accamperemo questa notte. La traversata. Pete e Patty cominciarono a trottare allegramente. Sembrava che anche loro fossero felici. Laura si reggeva all'arco in piedi sul carro che sobbalzava. Oltre le spalle di papà e oltre la verde erba ondeggiante, riusciva a scorgere gli alberi. Erano diversi da tutti quelli che aveva visto fino a quel momento. Non erano più alti di un cespuglio. Wow, disse papà. Adesso da che parte andiamo? Mormorò tra sé. La strada si biforcava ed era impossibile dire quale delle due fosse la più praticata. Non erano altro che tracce sbiadite di ruote nell'erba. Una andava verso ovest e l'altra scendeva leggermente verso sud. Entrambe scomparivano nell'erba. Credo sia meglio andare giù, decise papà. Il torrente è in basso, questa deve essere la strada che porta al guado. E diresse Pete e Patty verso sud. La strada andava su e giù, e poi di nuovo su, lungo il terreno ondulato. Gli alberi ora erano più vicini, ma non più alti. Laura trattenne il respiro e si aggrappò all'arco perché oltre il naso di Pete e Patty non c'era più l'erba ondeggiante, non c'era più nemmeno la terra. Guardò oltre il bordo del precipizio e al di là degli alberi. In quel punto il sentiero svoltava. Per un poco osteggiò il dirupo, poi scese bruscamente. Papà frenò. Pete e Patty spostarono tutto il loro peso sulle zampe posteriori fino quasi a sedersi. Le ruote slittavano in avanti, il carro scendeva poco a poco lungo la ripida discesa, sprofondando nel terreno. I bordi frastagliati della nuda terra rossa salivano ai lati del carro. C'era dell'erba in cima, ma niente cresceva lungo le pareti rugose. Erano calde e Laura sentiva quel calore sul viso. Il vento continuava a soffiare lassù, ma non in questa profonda crepa scavata nella terra. L'immobilità sembrava strana e vuota. Poi il carro fu di nuovo in posizione orizzontale. La vasta crepa lungo la quale era sceso finiva in un basso piano. Lì si trovavano i grandi alberi che Laura aveva visto da sopra. Boschetti ombrosi punteggiavano il manto erboso e dei cervi vi stavano distesi, quasi invisibili in mezzo alle ombre. I cervi voltavano la testa verso il carro e i cerviatti, curiosi, si alzavano in piedi per osservarlo meglio. Laura era sorpresa di non vedere il torrente. C'era solo terra laggiù, sotto la prateria, dolci colline e terre soleggiate. L'aria era calda e immobile, sotto le ruote del carro il terreno era soffice. Negli spazi aperti e soleggiati l'erba cresceva sottile e i cervi la mantenevano corta. Per un po' le grandi rocce rosse si stagliarono alle spalle del carro, ma quando Pete e Patty si fermarono a bere al ruscello, erano ormai nascoste dietro le colline. Il suono scrosciante dell'acqua riempiva l'aria e il ruscello era costeggiato da alberi che facevano ombra sulle rive. Il piccolo corso d'acqua scorreva al centro, rapido e scintillante, di blu e di argento. Questo ruscello è abbastanza profondo, disse papà, ma penso che ce la faremo. Questo è un guado, si vede dalle tracce delle ruote. Che ne dici, Caroline? Come vuoi tu, Charles, rispose mamma. Pete e Patty sollevarono il naso bagnato. Alla vista del ruscello drizzarono le orecchie per sentire cosa avrebbe detto papà. Sospirarono e avvicinarono il muso uno all'altro come per parlare sottovoce tra loro. Poco più indietro Jack beveva l'acqua con la sua lingua rossa. Tirerò giù la tela per coprire il carro, disse papà. Scese dal sedile, srotolò la tela sui lati e la legò saldamente al carro. Poi tirò indietro la corda in modo che la tela si richiudesse lasciando solo una piccola apertura al centro. Mary si rannicchiò sul letto. Non amava i guadi, aveva paura della corrente. Laura invece era eccitata, a lei piaceva l'acqua. Papà salì sul sedile e disse: "Può darsi che debbano nuotare là in mezzo, ma ce la faremo, Caroline." Laura pensò a Jack e disse: "Papà, vorrei che Jack salisse sul carro." Papà non rispose. Prese saldamente le redini tra le mani, poi disse: "Jack sa nuotare, Laura, se la caverà." Il carro scese lentamente nel fango. L'acqua sbatteva contro le ruote, sbatteva sempre più forte, scuotendo rumorosamente il carro. Poi, di colpo, il carro si sollevò, dondolò e cominciò a ondeggiare. Era una sensazione piacevole. Il rumore cessò e mamma gridò: Bambine, mettetevi giù! Veloci come un lampo, Mary e Laura si gettarono sul letto. Quando mamma parlava in quel modo, facevano quello che diceva immediatamente. Mamma gettò su di loro una coperta. State ferme così, non muovetevi! Mary non si mosse, stava ferma e tremava, ma Laura non riusciva a trattenersi, voleva vedere cosa stava succedendo. Sentiva il carro ondeggiare e girare, e di nuovo il rumore dell'acqua, poi ancora il silenzio, poi la voce di papà la spaventò, diceva: Prendi le redini, Caroline! Il carro sbandò e qualcosa cadde rumorosamente nell'acqua. Laura si alzò in piedi, togliendosi la coperta dalla testa. Papà non c'era. Mamma sedeva da sola, tenendo strette le redini con entrambe le mani. Mary nascose di nuovo il volto sotto la coperta, ma Laura si alzò un po' di più. Non riusciva a vedere la riva del torrente. Non vedeva niente davanti al carro, se non l'acqua che gli sbatteva contro. E nell'acqua tre teste: la testa di Pat, quella di Patty e la piccola testa tutta bagnata di papà, che sceso in acqua stringeva forte le briglie di Pat. Nonostante il rumore dell'acqua, Laura riusciva a sentire la voce di papà. Era calma e allegra, ma non capiva cosa stesse dicendo. Parlava ai cavalli. Il volto di mamma era pallido e spaventato. Mettiti giù, Laura, disse mamma. Laura si sdraiò. Aveva freddo e non si sentiva bene. Nonostante avesse gli occhi chiusi, vedeva l'acqua e la barba scura di papà che vi sprofondava. Per tanto, tantissimo tempo il carro ondeggiò e dondolò. Mary piangeva in silenzio e Laura aveva sempre più male alla pancia. Poi le ruote anteriori urtarono qualcosa e papà gridò. Il carro strattonava, sobbalzava, tornava indietro, ma le ruote erano di nuovo a terra. Laura si rialzò, aggrappandosi al sedile, vide le schiene bagnate di Pat e Patty salire su per la via scoscesa e papà che correva accanto a loro urlando: Dai, Patty, dai, Pat, su, su, venite su! Accidenti, brave ragazze! Si fermarono in cima alla sponda, ansimanti e gocciolanti. Il carro era fermo, al sicuro, fuori dal torrente. Anche papà ansimava e gocciolava. Mamma disse: Oh, Charles! È tutto a posto, Caroline, disse papà. Siamo salvi. Per fortuna il carro era fissato bene al telaio. Non ho mai visto un torrente con una corrente così forte in tutta la mia vita. Pat e Patty sono ottimi nuotatori, ma non credo che ce l'avrebbero fatta se non li avessi aiutati. Se papà non avesse saputo cosa fare, se mamma fosse stata troppo spaventata per tenere le redini, o se Laura e Mary l'avessero disturbata, sarebbero stati perduti. Il torrente le avrebbe trascinate via e sarebbero annegate, e nessuno mai avrebbe saputo che fine avevano fatto. Era possibile che per settimane nessun altro passasse per quella strada. Bene, disse papà, tutto è bene quel che finisce bene. E mamma, Charles, sei bagnato fino al midollo. Prima che papà potesse rispondere, Laura gridò: Ehi, dov'è Jack? Lo avevano dimenticato. L'avevano lasciato sull'altra riva di quel terribile torrente e ora non riuscivano più a trovarlo. Oh, sicuramente aveva tentato di seguirli, ma non lo vedevano nell'acqua. Laura deglutì, sforzandosi di non piangere. Sapeva che non era bello piangere, ma il pianto stava proprio per scoppiarle in gola. Per tutto il tempo, fino dal Wisconsin, il povero Jack li aveva seguiti, paziente, fedele, e ora loro lo avevano lasciato annegare. Era così stanco. Oh, avrebbero dovuto lasciarlo salire sul carro. Era rimasto sulla riva e aveva visto il carro allontanarsi, come se a nessuno importasse di lui. Non avrebbe mai saputo quanto lo amavano. Papà disse che non avrebbe mai fatto una cosa del genere a Jack, nemmeno per 1 milione di dollari. Se avesse saputo che quel torrente era così profondo, non avrebbe mai lasciato che Jack lo attraversasse da solo. Ma non c'è più niente da fare adesso, concluse. Andò su e giù lungo la riva del ruscello in cerca di Jack, chiamandolo e fischiando per attirare la sua attenzione, ma fu inutile. Jack se n'era andato. Non potevano fare nient'altro che proseguire. Pat e Patty si erano riposati, i vestiti di papà gli si erano asciugati addosso mentre cercava Jack, prese nuovamente le redini e imboccò la salita, lasciandosi il torrente alle spalle. Laura guardò indietro tutto il tempo. Sapeva che non avrebbe più rivisto Jack, ma sperava ancora. Non vide nulla se non le curve delle colline che li separavano dal torrente e dietro al torrente ancora quelle strane gole di terra rossa. Poi Il carro si trovò di nuovo davanti a un precipizio. Le ruote passarono in mezzo a un crepaccio tra quei muri di terra. Pete e Patty salirono finché il crepaccio non divenne una valle erbosa. E la valle si aprì nuovamente in un'immensa prateria. Non c'erano strade, neppure lievi tracce di ruote lasciate da un carro di passaggio. Era come se in quella prateria nessun uomo avesse mai messo piede fino a quel momento. Solo l'erba alta copriva il terreno a perdita d'occhio e un grande cielo terso si stendeva sopra di essa. In lontananza il bordo del cielo andava a toccare quello della terra. Il sole era enorme, la sua luce sembrava pulsare. Tutto intorno l'orizzonte brillava di un rosa chiaro. Sopra il rosa il cielo era giallo, sopra il giallo era blu e sopra il blu era senza colore. Ombre viola si stendevano sulla terra, il vento soffiava come un lamento. Papà fermò i cavalli, lui e mamma scesero dal carro per accamparsi, anche Mary e Laura scesero a terra. Oh, mamma, disse Laura, già che è andato in paradiso, vero? Era un cane così bravo, può andare in paradiso. Mamma non sapeva cosa rispondere, ma papà disse: sì, Laura può. Dio, che non dimentica gli uccellini, non lascerebbe certo un bravo cane come Jack fuori al freddo. Laura si sentì un pochino meglio, ma era ancora triste e papà non fischiava come era solito fare mentre lavorava. Dopo un po', disse: non so come faremo in una regione non ancora civilizzata, senza un buon cane da guardia.